Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. One of the right things he did was treat this as a war on terror. We had no domestic attacks under Bush. We've had one under Obama. Number two, he should correct the things that Bush didn't do. Ecco. L'abbiamo già sentito. Questo è Rudy Giuliani in una intervista da George Stephanopoulos, l'ex comunicatore della Casa Bianca, convertitosi ormai in conduttore di grande successo nella televisione americana. Conduce Good Morning America, uno degli show di maggiore ascolto della TV americana. Una intervista a Rudy Giuliani, e a un certo punto Rudy Giuliani dice una cosa palesemente sbagliata, anzi palesemente falsa. Rudy Giuliani dice, lodando la gestione della Casa Bianca di George W. Bush e invece criticando quella di Barack Obama, dice sotto l'amministrazione di Barack Obama c'è già stato un attacco terroristico sul territorio americano, sotto la gestione di George W. Bush non ce n'è mai stato nessuno, ovvero clamorosamente, nonostante fosse sindaco di New York proprio in quei giorni, si dimentica dell'11 settembre 2001. Ma noi non vogliamo fare in questo caso il processo a Rudy Giuliani e alla sua memoria un po' zoppicante, piuttosto vogliamo mettere così un pallino rosso sul suo conduttore, il molto lodato George Stephanopoulos già citato, che semplicemente non dice nulla, cioè a fronte di una affermazione palesemente sbagliata non replica in alcun modo. E poi vogliamo sottolineare un fatto di cui siamo più o meno credo tutti consapevoli: in televisione, nei media, tutti i giorni girano un sacco di balle, o chiamate le cose sbagliate, o chiamate le affermazioni false, o chiamatele ancora in modo più sofisticato mezze verità, mezze vere, mezze false, dipende da dove le guardi. Ebbene, è una realtà che influenza le nostre scelte, i nostri pareri, le nostre opinioni, le nostre riflessioni, ma che adesso fa un piccolo passo in avanti attraverso una iniziativa che ci sembra interessante da sottolineare proprio perché innovativa. No? Noi qui ad Anni 10 cerchiamo di analizzare come cambiano i consumi culturali all'ingresso di questo nuovo decennio. Bene, questa ci sembra una novità piuttosto sostanziale. Si chiama la verifica, si chiama il fact checking in inglese, ovvero il controllare i fatti, le affermazioni che vengono fatte da ospiti televisivi, da intervistati, da uomini politici, da personaggi pubblici, vengono controllati. Vengono controllati da questo signore qua. So let's get some perspective on what's going on that issue. Let's bring in our chief White House correspondent, Jake Tapper. Good to have you, my friend. The question is that the president seems to be losing ground with Americans on the major three fronts: the economy, the deficit, and healthcare. Jack Tapper è un giornalista di grandissima, naturalmente, affidabilità. Se non lo fosse, tutto questo discorso non starebbe in piedi. Lavora alla ABC, lavora a This Week, che è uno dei magazine più seguiti, più stimati, più rispettati e più autorevoli d'America, e a partire da questa settimana ha avuto una idea che ha subito destato grande interesse nei media, in opinione pubblica americana, ovvero ha stretto un accordo con un sito internet di grande popolarità, si chiama politifact.com. andatelo a cercare, dategli un'occhiata, è curato peraltro dalla redazione di un quotidiano di San Petersburg in Florida, ma poi si è sviluppato in modo indipendente, al punto che è stato premiato addirittura, pensate, con un premio Pulitzer per la capacità di National Reporting di informare sulle cose nazionali. La specialità di PolitiFact è, in tempi brevissimi, analizzare, vivisezionare i discorsi, le affermazioni dei politici, i discorsi fatti al congresso o in televisione, e dire affermazione per affermazione, fatto per fatto, cosa c'è di vero e cosa c'è di falso. Anzi, loro hanno quattro gradi: vero, mezzo vero, falso e poi un pants on fire, che sarebbe pantaloni a fuoco, come dire, una balla clamorosa, insomma. E danno dei voti di veridicità, quindi, proprio alle affermazioni fatte. Bene, Jack Tapper ha pensato di connettere il lavoro informativo che lui fa intervistando grossi calibri della politica, soprattutto americana, o raccontando storie dell'America di tutti i giorni, le grandi notizie che la attraversano, connettendosi direttamente online, in diretta, in tempo praticamente reale con PolitiFact, che affermazione per affermazione fatta dagli ospiti verifica e giudica la veridicità. Ci è sembrata una novità interessantissima. Tra l'altro è un'idea che nasce su stimolo di un professore di giornalismo della New York University che si chiama Jay Rosen, un personaggio a sua volta di grande fascino, ma ci viene naturalmente in mente di portare, di importare tutto ciò dalle parti nostre. Pensate se i talk show politici della nostra serata televisiva, le battaglie combattute davanti alle telecamere e quelle affermazioni spesso urlate che i personaggi si sparano l'un l'altro venissero una via l'altra immediatamente sottoposti, no, alla campanella di un giudice imperturbabile, sicuramente implacabile e altrettanto imparziale. Ne verrebbero fuori delle belle, alcuni personaggi perderebbero credibilità, altri magari ne acquisterebbero, però il risultato finale quale sarebbe? Alzare il livello. E chi oggi non vuole alzare il livello del dibattito? Nothing but the whole wide world for one. Nothing, nothing. Yeah, nothing but the whole wide world for one. Anni 10. Parole. All new inside places we rarely get to see. Come and see the house. No cameras have ever been here before. Billionaire Sir Richard Branson's uber fantastical private island. This is where you conduct business here. On board his super yacht. We're on top of the world! An underwater airplane? Insomma, questo non è un trailer normale, è un trailer da protagonista, se possiamo dire così, perché è la protagonista stessa che fa il trailer della propria messa in onda. Nella fattispecie si tratta di Oprah Winfrey, che presenta una puntata del suo programma, una puntata nella quale, tra le altre cose, darà $1,000,000 a chi cuoce meglio la casalinga, che cuoce meglio un dolce nel forno, poi incontrerà Richard Branson e continuerà a condurre quella vita miracolosamente a cavallo, no, tra la normalità, tra la quotidianità americana e la eccezionalità del suo successo, che è poi il segreto della risposta così straordinaria che Oprah Winfrey ormai da decenni ottiene presso il pubblico americano. Ne parliamo nella sezione parole di anni 10, perché è uscita una biografia importante di Oprah Winfrey. Non so se è importante per autorevolezza, anche in riferimento a quanto dicevamo in apertura, no? Alla veridicità delle affermazioni prodotte. Forse se PolitiFact passasse al setaccio questo libro si alzerebbero parecchie palette rosse, ma di fatto però la firma è importante, perché è quella di Kitty Kelley, che è una giornalista, una ricercatrice americana specializzata in biografie che diventano facilmente dei best seller di personaggi di grande peso come Reagan o come i Bush, ad esempio. Ha dedicato a questo punto la sua attenzione e ben 524 pagine a Oprah Winfrey. Il libro si chiama Oprah e Biography, una biografia. Edito da Crown ed acquistabile naturalmente online, non viene trattata bene dalle recensioni, anche perché sostanzialmente è una biografia con il difetto principale, ovvero in assenza del protagonista, ovvero Oprah Winfrey ha detto no grazie alla richiesta della Kelly e non si è fatta intervistare, non ha concesso materiali, ha accettato solo in modo un po' indolente, no? Ma al tempo stesso minaccioso, caso, perché attenti a toccare i punti sensibili, gli avvocati partono immediatamente, comunque, di farsi analizzare da questa celebre biografa. Ne viene fuori un ritratto piuttosto spietato, perché naturalmente il non favore è stato ricambiato dalla autrice. Viene fuori il ritratto di una donna completamente concentrata sul lavoro, ma della quale però la Kelly non riesce a svelare qualche segreto piccante, che poi sono le vere molle che fanno vendere questi libri. Arriva a definirla una personalità asessuata, sì, ha un compagno che agisce nell'ombra, non ha relazioni neanche ipotizzabili, quella vecchia relazione gay che fa parte della sua biografia ormai è stata smentita troppe volte per essere rispolverata. C'è questa maternità a 15 anni di cui si torna a parlare, una maternità di un bambino poi morto prematuramente dopo solo poche settimane. Non ci sono apparenti segreti nella biografia di Oprah. In realtà ce n'è uno grandissimo, e la Kelly ha deciso di puntare tutto su quello, ma naturalmente non dà anticipazioni. Il segreto in questione sarebbe l'identità del vero padre di Oprah Winfrey. Poi è veramente un segreto così importante da conoscere, da svelare? In realtà Oprah è stata regolarmente allevata dalla mamma e da un padre adottivo che se ne è occupato nel migliore dei modi, e che peraltro si è prestato anche, sicuramente dietro l'autocompenso, a rilasciare delle interviste per questa biografia. Verrà fuori il nome del vero papà di Oprah Winfrey, però resta così un po' insondato, un po' lasciato in secondo ordine il grande valore di Oprah Winfrey, che è la capacità di comunicare. Forse questo non è compito di una biografia, ma in un caso di un personaggio così roboante, così ridondante, ma anche così abile nella capacità di inventare un canale di comunicazione preferenziale con un pubblico vastissimo come quello soprattutto del femminile americano, sicuramente osservano i recensori di questa biografia, sarebbe stato più interessante dedicare maggiore attenzione alla questione. In sostanza, di sicuro comunque il libro, tale è il fascino di Oprah anche in questa biografia magari un po' zoppicante, vedrete, scalerà immediatamente le classifiche di vendita americane. This is a CBS News special report. Dan Rather reporting for CBS News World Headquarters in New York. Former First Lady Jacqueline Kennedy Onassis has died of cancer at her apartment in New York City. Ecco, questo è uno spezzone, uno di quei pezzetti che hanno fatto la storia della televisione americana. È Dan Rather, grandissimo anchorman statunitense, che annuncia, siamo nel 1994, la morte, è una breaking news, la morte di Jacqueline Kennedy Onassis, da una regina all'altra, no? da Oprah Winfrey a Jackie O, per un'altra iniziativa editoriale che in America è destinata, è già molto annunciata, è destinata a fare molto rumore, e la attendiamo con una certa curiosità, passando poi attraverso una specie di personaggio intermedio, no? un anello di congiunzione che ci sembra interessante citare. Cosa c'è tra Oprah Winfrey e Jackie O? C'è Michelle Obama, certamente, la donna che ha il 78% di popolarità, ben una trentina di punti ormai più del marito, e che sicuramente è la migliore, la più credibile concorrente quanto a popolarità vista dall'osservatorio della Casa Bianca, appunto, di Jackie O. Ma di Jackie O stanno per svelarsi alcuni segreti, perché sta per uscire questo libro che raduna 6 interviste, ma sarebbe meglio dire 6 conversazioni, perché erano chiacchierate con una amica, quella che un grande della politica e della vita pubblica americana come Arthur Schlesinger ha tenuto appunto con Jackie Kennedy nel 1964, quindi all'indomani, pochi mesi dopo l'assassinio, l'omicidio di JFK. Si parla naturalmente di tutto in queste interviste, come si fa fra amici, ma si parla naturalmente prima di tutto del grande assente, ovvero di John Fitzgerald Kennedy, della sua morte, della mancanza, ma anche del ricordo, della memoria e del messaggio che Jackie comincia a elaborare attorno alla figura dell'uomo di cui è da poco la vedova. Poi si parla di tante altre cose, si parla di come erano complicate quelle relazioni tra marito e moglie, una coppia a modo loro già moderna ma già disfunzionale, certamente, come poi i biografi avrebbero più tardi approntato. Si parla della crisi di Cuba e si parla di un futuro che poi Jackie Kennedy, come sappiamo, saprà disegnare in modo assai particolare e anche estremamente mondano. Quindi il ritratto di un'altra regina. Si parla già anche di un possibile film. Partendo da queste conversazioni ci sta pensando Darren Aronofsky, lo stesso regista di The Wrestler. Ne potrebbe fare un film utilizzando Rachel Weisz, la sua compagna, nella parte di Jackie O. Solo qualche nota, perché qui stiamo parlando di parole, dobbiamo continuare a parlare, ma sono connesse però alla musica in questo caso, perché sono arrivati i Pulitzer, i premi alla creatività della parola americana, e c'è un Pulitzer che riguarda anche la drammaturgia, e per la 8ª volta in 92 anni il premio per la drammaturgia è andato a un musical, le cui note in sottofondo state per l'appunto ascoltando. È un caso piuttosto raro e quindi va certamente segnalato. Il titolo in questione è Next to Normal, musiche di Tom Kitt, in questo momento il ragazzo d'oro di Broadway. Questo Tom Kitt ha solo 36 anni, ma dove va, dove tocca, arrivano i successi. Per gli amanti del rock ha in preparazione anche un musical, pensate un po', dedicato ai Green Day. Questo Next to Normal è un musical sui generis, forse anche per questo è stato premiato. Non è una storia rosa, non è una storia leggera, è una storia in realtà intrisa di problemi gravi, di questioni estremamente serie, spostate, e qui c'è la magia di saperlo fare invece in un'ambientazione appunto musicale, di rivista, chiamatela come volete. È la storia di una madre che soffre di disturbi bipolari, degli effetti della sua malattia sulla sua famiglia. È già stato premiato nel 2009 con il Tony, con l'Oscar del teatro, e a questo punto arriva per questo Next to Normal, che siamo molto curiosi di vedere, anche un riconoscimento importante come il Pulitzer. Segnaliamo semplicemente un altro Pulitzer, quello a Tinkers di Paul Harding, un romanzo di cui si parla già usando parole importanti, si parla di capolavoro, la storia di un uomo che negli ultimi suoi giorni di vita ricorda il difficile rapporto con un padre epilettico. Si chiama Tinkers di Paul Harding, quest'altro Pulitzer su cui ci sembra indispensabile mettere l'accento, Pulitzer di valore per il 2010. Anni 10. Suoni. Qualche minuto, anni 10, vi informiamo che l'ultimo pezzo che avete ascoltato in chiusura dell'area parole, intitolato Here Lies Love, cantato da Florence Welch, e il pezzo che state ascoltando qua sotto, intitolato Every Drop of Rain, ogni goccia di pioggia, cantato da Candy Payne e Sam Vincent, sono in realtà parte dello stesso progetto, ed è di questo che vogliamo cominciare a parlarvi nella sezione musicale di anni 10, perché questa ci sembra veramente una novità, fatta, prodotta, inventata, realizzata da un personaggio che da ben altri anni viene, ma che continua a sapersi rinnovare, proprio come noi chiediamo, no? Come condizione per entrare a far parte così del pannello di novità che vi presentiamo ogni settimana qui ad Anni 10. Il personaggio in questione si chiama David Byrne ed è uno dei nostri prediletti, non lo nascondiamo. Nei lontanissimi 78-79 fece la New Wave a New York con i Talking Heads, che era una band laboratorio del suono rinnovato, elettrico, ma che si cominciava a contaminare con tante altre cose di tanti colori e origini. Poi, sciolti i Talking Heads, ha attraversato e continua a attraversare la più poliedrica delle carriere artistiche, no? Il settimanale Time l'ha chiamato l'uomo del Rinascimento, è uno che fa tutto, pensate che disegna anche sedie, anzi personalmente le ho anche provate le sue sedie e sono bellissime, ma del tutto inutilizzabili, una scomodità terribile. Poi scrive libri, ha una società che si chiama Todo Mundo, all'interno della quale la globalizzazione intelligente viene è all'ordine del giorno, è il materiale da think tank, ci sono un sacco di ragazzi in gamba che lavorano con lui in questo grande loft del Village di New York, e poi continua a fare musica con dei progetti stranissimi come quello di cui vi stiamo parlando, che si chiama Here Lies Love. Cos'è questo Here Lies Love? È in realtà un altro musical, un musical virtuale, perché è andato in scena, ha fatto due o tre esibizioni, messe in mostra, delle preview, diciamo così, in alcune grandi discoteche, ma poi non verrà mai rappresentato, a meno che non arrivino delle condizioni eccezionali. Lo stesso David Byrne tende ad escluderlo, però resta comunque un concept album con una gran voglia di visualità. Non a caso ci sta pensando David Byrne in prima persona, che realizza, ne ha già fatti sei, dei videoclip che vi consiglia di vedere insieme all'ascolto del suo disco per capirlo meglio, perché poi questa è la storia di un personaggio. Il personaggio in questione è niente meno che la First Lady delle Filippine, Imelda Marcos, un personaggio che ha affascinato in positivo e in negativo per quanto è stata avventurosa, strana, bizzarra, particolare, pirotecnica la sua esistenza, piena di punti altissimi e punti bassissimi, e per come poi questa sua esistenza, stranamente, no, al di là dell'incontro con i grandi del mondo, le decisioni più importanti e più gravi, è stata punteggiata da una folle passione per il ballo, che naturalmente ha fatto scattare l'interesse di David Byrne. Che ha fatto David Byrne? Ha chiamato Norman Cook, il suo amico alias Fatboy Slim, ovvero uno che sa come far ballare anche i morti, sinceramente, e gli ha detto: facciamo un concept album insieme attorno alla figura di Imelda Marcos. Ha chiamato 22 artisti diversi a interpretare la parte di Imelda Marcos nelle diverse canzoni che rappresentano diverse scene della sua vita, e poi si è inventato una specie di etichetta per tutto questo, una specie di social pop, un pop sociale che trova, no, nuova linfa per quel rock un po' consunto nel diventare in un certo senso giornalismo rappresentato, cantato, musicato e soprattutto ballato. Vi ho detto tutto questo per farvi capire di che si tratta. Adesso vi faccio però sentire un altro brano dall'album, che vi ricordo ancora si chiama Here Lies Love. I titolari dunque sono Fatboy Slim e naturalmente David Byrne, ma questa nella fattispecie è Tori Amos che per loro interpreta You'll Be Taken Care Of. E questa quindi è Tori Amos, ma ce ne sono tante altre di vocalist di gran qualità nel progetto di David Byrne. Solo qualche nome: c'è Cyndi Lauper, c'è Martha Wainwright, c'è Camille, insomma un disco con il quale Byrne riesce ancora una volta a smuovere le acque, a provocare, a far pensare, a stupire. Non è facile nel 2010 del pop. Invece un personaggio che in un certo senso vuole semplicemente andare dritto, tranquillo per la sua strada, perché, come dire, il peso più grosso l'ha incontrato in partenza, ammesso che possa essere considerato un peso il fatto di essere il figlio di Bob Dylan, uno dei quattro figli che Bob Dylan ha avuto da sua ex moglie Sara. È Jacob Dylan, ormai anche lui ha 40 anni, non è più un ragazzo. A lungo abbiamo pensato a Jacob come al giovane, no? al ragazzo Dylan, invece ormai è un uomo con una famiglia, vive a Los Angeles, ha una carriera musicale consolidata che a sua volta ha quasi una ventina d'anni di profondità, ha un gruppo di grande successo alle spalle, perché ormai è pressoché disciolto, si chiamavano i Wallflowers, erano molto amati nella scena college americana, poi ha intrapreso, sempre vivendo una vita riservatissima, ma di più, veramente isolato, si sa pochissimo di Jacob, se non quell'episodio strano, no, di quella volta in cui collaborò con Danny Harrison, cioè il figlio di George Harrison, per rifare una canzone di John Lennon in un album omaggio. Ci fece veramente ci stupì questa idea di due figli, uno di Bob Dylan e l'altro di George Harrison, che si mettono insieme, collaborano per fare una canzone di un altro santo del pop. E cosa fanno finta di niente, oppure dicono: ma a te come va, come sta andando la vita, questa tua vita da figlio? Comunque, tutto questo per dire che è in uscita un nuovo disco di Jacob Dylan, come sempre curatissimo, quasi maniacale, di grande atmosfera, di grande densità, di grande intensità. Si chiama Women and Country, le donne e il paese. Le collaborazioni migliori di questo album sono con Kelly Hogan e soprattutto con Nico Case, che è una grande artista indipendente, una grande cantante, frontwoman del rock, pop rock indipendente americano. Anche la band che accompagna Jacob Dylan è appunto quella di Nico Case, e quindi diamo, come dire, una possibilità a un altro Dylan. Oh, it's a struggle, it's a scrape, it's all giving no take. Whatever it is now, it's right up to our waist. Oh, it's a pity, it's a shame to see it all slip away. I've seen you worried, babe, but never this way. We hold our Quindi per avere un Dylan di nuovo in giro, in casa, sul proprio CD, autoradio, quello che è, c'è Jacob che fa la sua proposta, Women and Country. Un'ultima segnalazione rapida, ma ci sembra indispensabile, questa è un'altra beniamina delle nostre trasmissioni qui da Radio 24, si chiama Sharon Jones, è una signora di 55 anni, arrivata al successo, che sono 2-3 anni, quindi ci è arrivata veramente tardi, come protagonista di questo revival del funk, del rhythm and blues, che sta avendo luogo soprattutto a Brooklyn, a New York, e in un ambiente quasi esclusivamente bianco, quello circonda una etichetta di Brooklyn che si chiama Dap Tone, e Dap Kings si chiamano i ragazzi della band che accompagnano Sharon Jones, che sono tutti bianchi, mentre lei invece ha il suono più nero possibile in questo suo nuovo album intitolato I Learn the Hard Way, l'ho imparato nel modo più duro, è il ritorno di Sharon Jones. 2010. Figure. People don't call on my birthday anymore. I guess they don't call people on their birthdays, so why should they call me? It's weird aging, right? Youth is wasted on the young. I'd go further. I'd go... Life is wasted. C'è un film che sta uscendo negli Stati Uniti che è al centro già di un dibattito, di una discussione che ci ricorda discussioni avvenute in occasione di un altro film che raccontava, dipingeva il malessere americano. Quel film era Magnolia, un capolavoro anni 90 di P.T. Anderson. Questo film invece, veramente 2010, si intitola Greenberg, come il cognome del protagonista, che è interpretato da Ben Stiller. Come vi abbiamo detto più volte, naturalmente non è nel mandato della nostra trasmissione recensire o comunque fare i critici, piccoli critici cinematografici. Ci interessano per quello che riguarda il cinema quei film che in un certo senso sbordano, no? Arrivano nel sociale, nel dibattito, diventano luogo comune del confronto, e sembra proprio essere il caso di questo Greenberg, firmato da Noah Baumbach e prodotto da Noah insieme alla sua compagna, che è un'attrice che ben conosciamo anche in Italia, e si chiama Jennifer Jason Leigh, e che tra l'altro si concede anche un cameo nel film in questione. Storia di malessere generazionale di chi? Una volta tanto non dei ragazzini, dei soliti ragazzini disfunzionali americani, ma di un quarantenne così stereotipo da poter indurre al transfert, all'identificazione un sacco di gente, e per l'appunto interpretato da Stiller, che peraltro di anni poi ne ha credo 45 se non sbaglio. Ma la questione al centro dell'interesse mediatico riguarda questo film, giudicato di grande qualità comunque da tutti coloro che l'hanno visto, è un altro, ed è e riguarda l'aborto, una questione che non smette mai di essere nel mirino dell'opinione pubblica americana. È stata anche territorio di trattativa, no? nel recente varo della riforma della sanità americana. E qui succede qualcosa di strano in questo film, in cui Stiller è questo quarantenne annoiato, scontento, infelice, nervoso, incapace di relazionarsi con la sua vita, la sua collocazione sociale, il suo successo e l'insuccesso, e i rapporti con gli altri. Succede che ha una relazione con una ragazza molto più giovane di lui, interpretata da Greta Gerwig, e che questa ragazza, per dare un senso, come dire, più compiuto alla relazione, decide, senza avvisare il protagonista, decide di abortire del frutto di una sua recente relazione. È un caso più unico che raro, è questo che è stato notato dai giornalisti americani. Non si abortisce nei film americani, ovvero si parla tanto di abortire in tanti film, ci si ragiona, ma poi c'è sempre l'happy ending, alla fine si decide sempre di tenere il ragazzino. È il caso di Sex and the City, no? Miranda alla fine va in questa direzione. È il caso di tanta televisione americana, Dawson Creek, Beverly Hills 90210, c'è sempre il rischio di un aborto e poi all'ultimo momento rientra. Invece qua, senza che la parola aborto sia mai una volta pronunciata in tutto il film, poi il dramma va in scena, ma viene anche, come osserva un bel articolo pubblicato dal Daily Beast, viene anche ridimensionato in un certo senso. Non è una cosa così importante, si fa e basta, e si osserva come invece ciò che avviene nell'epilogo di Juno, un altro film che parla di possibilità di aborto, molto discusso anche in Italia, no? Si osserva come nel 99% dei casi della realtà, quello che avviene in Juno, quella strana procedura di cessione, o forse no, del bambino, ma che comunque va salvaguardato, nella realtà raramente va in scena. E quindi questa naturalezza così apatica e questo approccio, come dire, naturalista, ma anche piuttosto sconvolgente, che si vede in Greenberg, sta destando l'interesse della critica e anche del pubblico più informato, quello metropolitano, attorno a questo film, segno che Ben Stiller ancora una volta ha fatto centro. Oh, Brian Selznick joins us to talk about his spellbinding novel, The Invention of Hugo Cabret. You have created such a wonderfully magical book here. What inspired you to write Hugo Cabret? George Melies had started as a... Questo signore che sta parlando qua sotto si chiama Brian Selznick, ha scritto un libro molto particolare, un libro illustrato da meravigliosi disegni, un libro che sta per diventare un film. Entrambi si chiamano The Invention of Hugo Cabret, l'invenzione di Hugo Cabret, la storia ambientata all'inizio del Novecento di un bambino sfortunato, di Oliver Twist, insomma, che vive in un bugigattolo ricavato nelle mura della stazione di Parigi, all'interno del quale in quel momento vive anche un altro personaggio che è stato appunto appena nominato da Brian Selznick, l'autore del libro, un personaggio in questo caso di realtà, ovvero Georges Méliès, l'inventore o uno degli inventori del cinema per come lo conosciamo, che però contrariamente ai fratelli Lumière ebbe un epilogo della vita disastroso, finì in rovina, dovette vendere, cedere tutte le sue opere, non solo, finì per aprire un banchetto di giocattoli all'interno della stazione di Parigi. E naturalmente qui i due personaggi, quello reale Georges Méliès e il ragazzino di fantasia Hugo Cabret, finiranno naturalmente per incontrarsi, un banchetto di giocattoli molto particolare, come poi vedrete, quello aperto da Georges Méliès dentro la stazione. Perché ne parliamo dentro le nostre figure anni 10? Perché Martin Scorsese ha scelto, ha dato il suo imprinting a Hugo Cabret e l'ha scelto per farci un film. Sarà il suo prossimo film, l'ambientazione verrà spostata leggermente più in avanti, negli anni 20-30, ci saranno Ben Kingsley, ci sarà Sacha Baron Cohen, pensate un po', lo conoscevamo in ben diversi panni, e soprattutto ci sarà una novità importante per quello che riguarda Martin Scorsese, il segno che ai tempi non si resiste e bisogna mettersi in quel flusso, ovvero Martin Scorsese alla fine ha deciso di girare questo film in 3D, che è abbastanza una sorpresa, perché insomma Scorsese, certamente anche per quello che conoscete, come dire, è un purista del cinema, no? Uno che ha avuto il coraggio di girare anche in bianco e nero quando il colore dominava, pensate a Toro Scatenato, uno che ama l'Hollywood classica, chissà come vuole rapportarsi, è solo curiosità o è bisogno di essere parte del mercato. Comunque il film sarà in 3D anche grazie, ripeto, a questo straordinario repertorio di invenzione illustrativa che il libro già porta con sé in dote. Vedremo come la rivivrà Scorsese. Visto? Con questo bastone mi scambiano per un paziente. Mettiti il camice bianco come tutti noi. Non voglio che pensino che sono un medico. Capisci perché la direzione contesta il tuo comportamento? La gente non vuole medici malati. Il New York Times se ne occupa del signore che parla qua sotto, e già avrete capito essere il dottor House. Ci sono certe cose che, guardate, che in America vanno a una velocità finalmente un po' più ridotta, un po' più contenuta che da noi. Dr. House, che per insomma l'esplosione in Italia fu un vero e proprio una vera e propria sensazione, in America ha avuto il suo successo, ma non tutto quello magari che gli ha riconosciuto il pubblico italiano, però con il passare del tempo la qualità di quella serie si sta consolidando sempre più e i riconoscimenti arrivano, come per l'appunto un grosso articolo che il New York Times, il più importante quotidiano americano, dedica a Hugh Laurie e al suo personaggio. È un articolo con una notizia come accidente, come motore, ma poi che si dedica quasi interamente a coltivare un altro aspetto di questo attore, questo interprete assai particolare, ovvero la sua profonda, innata, inestirpabile britannicità. Lui è inglesissimo, fare un dottore così un po' pigro, un po' sciamannato del New Jersey come fa in Dr. House è una fatica pazzesca, e Bill Carter, che è il giornalista che ha incontrato Laurie in questa occasione, racconta come appena si accendono e si spengono le luci del set di Dottor House, ci sia questa trasformazione straordinaria, no? Di Hugh Laurie, che diventa il Dottor House, si mette a parlare in americano strascicato e poi si spengono le luci, torna a impadronirsi del suo pulitissimo accento shakespeariano, no? E inglese. La notizia in questione che vi dicevo è divertente, perché Hugh Laurie, dopo aver approfondito, come racconta l'intervista, ogni possibile aspetto del Dottor House, ha deciso di fare un salto di qualità e dirigerà uno degli episodi della prossima serie che vedremo in Italia l'anno prossimo del Dottor House. Naturalmente un episodio particolare, deluxe, diciamo così. Vi ricordo tra l'altro che il pilota del Dottor House viene firmato niente meno che da Bryan Singer. In questa fattispecie, in questo episodio, il protagonista sarà David Strathairn, no? Ovvero uno dei più grandi attori del cinema americano, nella parte di un paziente che ha solo 24 ore di vita, gli restano solo 24 ore di vita, però ha incontrato il Dottor House. Come volete che finisca? E allora, Oprah Winfrey, Jackie Onassis, questo Pulitzer a Next to Normal che ci incuriosisce molto, i dischi di David Byrne, Jacob Dylan, Sharon Jones, il film di Ben Stiller destinato al dibattito, le novità su Scorsese, tutto questo è anni 10 di oggi. Vi ricordo che c'è una pagina di Facebook dove potete trovare tutti i link per approfondire, per risalire, per avere i titoli, insomma, per non diventare matti se vi interessa ciò di cui vi abbiamo parlato. Nella fattispecie si chiama Anni 10 Radio 24, la pagina in questione. Poi c'è anche una pagina invece per parlare con noi che si chiama semplicemente Anni 10. Io sono Stefano Pistolini, la mail del programma è anni10@radio24.it, redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti. Ci sentiamo tra 7 giorni, a presto.